è un quadro estremamente desolante, è un quadro desolante se guardiamo al funzionamento del sistema, che possiamo tranquillamente definire inumano e costoso, inefficace e ingovernabile. È un sistema completamente fallimentare di cui i dati certificano il fallimento. L'unica cosa che è riuscito ad ottenere questo sistema nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi, è quello di diventare di fatto lo strumento per rimpatri accelerati dei cittadini di nazionalità tunisina, che rappresentano la metà delle persone che entrano in un CPR e quasi il 70% di quelle che vengono rimpatriati. Peccato che questo sia un risultato, diciamo, di dubbia efficacia, anche abbracciando l'obiettivo che è quello del rimpatrio, perché i migranti tunisini sono solamente il 18% degli arrivi via mare fra il 18 e il 23. Quindi anche volendone abbracciare, diciamo, lo scopo di questi centri, che a nostro modo di vedere travalicano quello che è concesso dalla nostra Costituzione, ma una giurisprudenza consolidata ne consente l'esistenza ai fini del rimpatrio, anche questo obiettivo, diciamo, che è mancato dal sistema detentivo. E oltretutto sono molto costosi. Sì, esattamente. Intanto ci tengo a chiarire che abbiamo fatto uno sforzo immane per ottenere i dati che liberiamo, ci piace dire così, nel senso che queste dovrebbero essere delle informazioni sempre disponibili per la società civile, che dovrebbe monitorare le politiche. Invece noi abbiamo impiegato 2 anni di lavoro, 51 richieste d'accesso agli atti e 30 richieste di riesame per ottenere questi dati, e siamo riusciti, seppur con delle lacune, a ricostruire il costo complessivo, ad esempio fra il 18 e il 21, di questo sistema detentivo, che ricordiamolo conta 10 centri di permanenza per il rimpatrio, di cui 9 attivi perché al momento Torino è temporaneamente chiuso. Il costo che abbiamo ricostruito con estrema fatica ci parla appunto di un costo esorbitante, 53 milioni di euro complessivamente fra il 18 e il 21, con un costo medio di ogni singola struttura di 1,5 milioni l'anno e di un posto sui 21.000 euro all'anno. La cosa interessante per noi da notare è che quasi 15 milioni di questi 53 sono spesi per la manutenzione dei CPR, e in modo particolare oltre il 60% è speso per le manutenzioni straordinarie, ovvero per quelle manutenzioni che non sono preventivate e che seguono danneggiamenti, vista l'invivibilità di questi luoghi, anche perché le persone che vi sono dentro spesso non ne comprendono neanche il motivo. Ricordiamo che non ci si entra avendo commesso un reato, al contrario di quanto dice retoricamente il governo, è proprio una sanzione amministrativa che invece porta ad essere tradotti in un CPR. Praticamente per noi italiani è come se a seguito di un'infrazione, di una multa, venissimo privati della libertà, e quindi, diciamo, i danneggiamenti sono comprensibili, e l'impossibilità di vivere privati della propria libertà per non aver commesso alcunché porta a questi danneggiamenti. E nonostante questo si continua a prolungare il tempo di trattenimento. Siamo arrivati nel 2023 con il governo Meloni nuovamente a 18 mesi di trattenimento, e vediamo che il tempo di trattenimento ha solamente quale effetto la crescita esponenziale delle spese di manutenzione straordinaria. Tanto per darci anche qui due dati, nel 2018 a 27 giorni di permanenza media in un CPR corrispondevano 1.200.000 euro di costi di manutenzione straordinaria, nel 2020, quando i giorni di permanenza media diventano 41, i costi balzano a oltre 4 milioni di euro di manutenzione straordinaria. Quindi c'è una correlazione diretta fra l'invivibilità di questi posti, il tempo di permanenza e quindi i costi associati alle ricostruzioni. Tu citavi appunto le proteste e le rivolte, che sono un sintomo di una grande sofferenza che appunto prova chi vive all'interno e spesso non vede garantiti i propri diritti. Assolutamente, pensate che noi ci troviamo in un quadro di confusione gestionale e amministrativa totale. Nel periodo che noi prendiamo in considerazione, che è la più lunga serie storica sui CPR, che va dal 14 al 21, sono dati che potete trovare sulla piattaforma actionaid.trattenuti.it, in questo periodo si accavallano 3 capitolati. Lo schema di capitolato è quello che dice come deve funzionare il centro. Se ci limitiamo solamente all'ultimo schema di capitolato, quello vigente, questo è addirittura ormai superato, nel senso che è legato alla cosiddetta riforma Lamorgese che ha seguito il decreto sicurezza, quindi al DL 130 del 2020. Ma il cosiddetto decreto Cutro, che non ci piace chiamare così per ovvie ragioni, ma è la legge 50, ormai supera la legge Lamorgese tagliando tutti i servizi. Ebbene, noi ci troviamo invece un capitolato che ancora si riferisce a quei servizi, e nonostante preveda dei servizi all'interno, per darci anche qui dei dati, parliamo di servizi che, per quanto riguarda ad esempio l'assistenza legale, sono solamente di 9 minuti a settimana a persona all'interno di un CPR di 50 posti. minuti, quindi 9 minuti a settimana a persona che comprendiamo bene non siano sufficienti per permettere a una persona di avere la consapevolezza rispetto alla propria situazione giuridica, per conoscere, per capire che cosa li ha portati all'interno di quel centro detentivo e quali sono le prospettive di uscita da quel centro detentivo, visto che, come abbiamo detto, i rimpatri si aggirano sul 49% nel periodo che va dal 18 al 21. Anche se guardiamo ad esempio la sofferenza psicologica che giustamente tu citavi, il supporto psicologico è ugualmente di 9 minuti a settimana. Se questi dati che abbiamo fornito li accoppiamo poi con un servizio come quello di traduzione, di mediazione linguistico-culturale, che è di 28 minuti a settimana, comprendiamo bene come effettivamente queste persone sono semplicemente abbandonate e quindi vivono una condizione di privazione della libertà e una condizione di sofferenza psicologica estrema, anche perché oltre alla privazione della libertà non compresa si tagliano i legami non solo con la famiglia e la rete amicale nel paese d'origine, ma anche con quella che si era costruita in Italia. Il governo Meloni vuole di fatto raddoppiare il numero dei CPR, realizzandone uno in ogni regione. Su questo tema stanno nascendo proteste e mobilitazioni, noi a Bologna ne abbiamo avute già alcune, ma anche in altre città italiane. Quindi, oltre dal punto di vista politico-etico, come dire, anche dal punto di vista, diciamo così, tecnico, i CPR sono un sistema fallimentare? Assolutamente, sono un sistema fallimentare perché i nostri dati dicono esattamente che dal 2017 si rimpatria meno e si rimpatria in maniera coercitiva. Noi dobbiamo pensare che questi non sono dei luoghi, come viene ribadito più volte dal governo, in cui vengono trattenuti i migranti pericolosi socialmente, perché sono solamente il 15,8% delle 37.000 persone che dal 14 al 21 transitano per i CPR, quindi sono una minoranza le persone che vengono tradotte direttamente dal carcere ai CPR, al contrario sono persone che, come detto, non hanno commesso alcun tipo di reato. E se andiamo indietro nel tempo scopriamo che nel 2013 c'era stato un documento dello stesso Ministero dell'Interno che aveva valutato come esorbitanti i costi rispetto all'obiettivo che consentivano di raggiungere questi CPR, per cui abbiamo vissuto una stagione di disincentivo di questa politica di detenzione volta al rimpatrio, ed è proprio lì che registriamo i numeri più alti, le percentuali più alte per quanto riguarda i rimpatri. Quindi noi andiamo da un 2014 in cui si rimpatriavano il 61% delle persone tradotte all'interno dei CPR fino al 49% che registriamo nel 21. Quindi chiunque si avvicini in maniera laica a questi dati, quindi non con un intento di strumentalizzazione, deve riconoscere l'infallimento di questa politica detentiva, deve riconoscere l'inutilità e la disumanità di questi luoghi che comportano solamente un dispendio, uno sperpero di risorse pubbliche, di soldi pubblici, perché questi non sono degli investimenti che ritorneranno sul nostro territorio come può essere l'accoglienza, questi sono dei soldi a perdere, gettati nel tentativo di detenere le persone migranti, considerate, come ben sappiamo, purtroppo un carico residuale delle minacce alla pubblica sicurezza. Il governo Meloni sta cercando di tirare su un CPR in ogni regione, anche questo progetto non è nuovo e non è tipico dei governi di destra, purtroppo abbiamo iniziato infatti dal 2015 a rispondere a questa chiamata dell'Europa che ci diceva di rimpolpare, diciamo, i posti in detenzione nei CPR italiani, e però questo disegno di realizzazione di un CPR per ogni regione è sempre fallito, e anche nel 22, quando arriviamo a circa 1.400 posti in detenzione su tutto lo stivale, possiamo vedere che dal 18 al 21 comunque tutte le strutture funzionano al 50% della propria capienza effettiva, per i problemi che dicevamo prima, per l'invivibilità e quindi per la necessità di dover continuamente ristrutturare queste strutture, per cui nel 22 siamo circa sui 1.400 posti e ne funzionano circa 740. Quindi da ogni parte possiamo registrare il fallimento di questo sistema.